spesso, liberami ora, non posso stare qui, non lasciarmi ancora, non sarà mai più lo stesso. No, non sarà lo stesso, non lasciarmi ora, io lo so che un pensiero ti divora, da sola, sotto le tue lenzuola. Vorresti sentire le parole di un'altra persona nel buio della notte. L'incertezza che ti inghiotte, le speranze un tempo integre. Ora sono distrutte e questa è colpa tua e tu lo sai. Come sai che in fondo le persone non cambiano mai, restano uguali, segni vitali, paranormali. Con un faro addosso ma senza ombre, proiezione astrale mentre il tuo corpo dorme. Tra sogni e visioni mi vedrai, saprai, sì che mi sentirai. Capirai che tra pianti e spasmi tu stai parlando coi fantasmi. Liberami ora, io non posso stare qui, non lasciarmi ancora, non sarà mai più lo stesso. Liberami ora, io non posso stare qui, non lasciarmi ancora, non sarà mai più lo stesso. Ora nel letto ti rivolti e rigiri, sempre più forti voci e sospiri. Alla finestra la luna che ti illumina, ti avviso già che questa notte non si dormirà. Fissi il soffitto, si stringono le pareti, la stanza si fa piccola, ormai pochi sospetti. Sempre più spettri che ti avvolgono, ti confondono, paure si confondono. La porta bloccata, non funziona la luce, un'arma vicino al computer, non ci sono cartucce. Vieni, ti porterò lontano, tra sacro profano, dai, dammi la mano. Un viaggio che assieme abbiamo già percorso, un nostro segreto a fianco a me c'è un solo posto. Alla soluzione manca il tassello chiave, lo tengo in tasca solo per vederti tornare. Liberami ora, io non posso stare qui, non lasciarmi ancora, non sarà mai più lo stesso. Liberami ora, io non posso stare qui, non lasciarmi ancora, non sarà mai più lo stesso.